noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Oggi ce ne sono pochi da dare a parole, sono messaggi da dare sul campo, forti, che devono trascinare la gente a portarci a questa piccola impresa. Le parole ormai le abbiamo adoperate tutte in questi giorni e adesso penso che sia arrivata l'ora dei fatti. Grande voglia, grande, non si vede l'ora di poter andare in campo e ribaltare una situazione che riteniamo ingiusta, quindi ci andiamo, cerchiamo di andarci a riprendere quello che pensiamo di meritare. Per i fischi, per le critiche, tutto, c'è spazio dal 90esimo in poi e ognuno di noi sa che deve avere l'umiltà e il senso di responsabilità di accettarli. Finché c'è partita, finché c'è speranza, finché siamo lì a batterci, è chiaro che il sostegno e un atteggiamento propositivo da parte del pubblico ci potrebbe dare veramente una mano. Quando chiami il pubblico e ti appelli alla misericordia arbitrale, vuol dire che insomma le cose non sono messe benissimo. Io oggi non potevo non parlare con colui, vabbè, mio amico, quindi interesse privato in atto pubblico, lo confesso, ha dato la miglior definizione di tutta questa storia Italia-Svezia, operazione Italia-Ikea. Maurizio Crosetti di Repubblica, buongiorno. Buongiorno, sì, qua brugola del 12 col cavolo. No, crescono tre tasselli e uno soprattutto è quel grosso buco, quel grosso tassello che ci hanno infilato agli svezzi. Bisogna stuccare il buco e poi metterne almeno altri due tasselli, però io purtroppo ho l'impressione che la brugola del 12 non basti. Brugola del 12 è sbagliata, secondo me. La brugola del 12 è sbagliata e secondo me è abbastanza incomprensibile la brugola dell'11, cioè quelli che oggi entrano in campo contro la Svezia, perché io anche la brugola del 10 in panchina, cioè la brugola del 10. La brugola del 10 in panchina è lo strumento che la nazionale dovrebbe sempre usare, secondo me. No? Allora, la brugola del 10 non puoi non usarla. Allora, beh, per non parlare ai tre che non l'hanno capito. No, per non parlare in sanscrito, per l'appunto, anche per gli incliti, insomma, la brugola del 10 è il 10, la maglia che porta Lorenzo Insigne. Maurizio, aiutami tu perché mi vuoi bene. È tutta la settimana che il litigo con tutto il mondo, Pardo compreso, sta arrivando. Perché mi dicono che Lorenzo Insigne, cioè l'attaccante italiano con maggiore talento, può giocare solo in un attacco a tre perché ha una piastrella di 20 metri per 20, a proposito di brugole e di manufatti, e in quella piastrella lui gioca perché deve saltare l'uomo verso l'interno e tirare di destro. Allora, se il prossimo, che da domani, se usciamo dai mondiali, esce con la storia dei numerini, io ci parlo normale, poi mi arrabbio per fatti miei. No, guarda, io cito un classico del pensiero contemporaneo, Massimiliano Allegri, che definisce i numerini bischerate. Poi li usa anche lui e li ha cambiati, e come, l'anno scorso cambiando i numerini ha cambiato la Juve, ancora un po', non dico vince la Champions, ma insomma ci è andato vicino, però non è così, cioè non è con i numerini che scegli i giocatori li scegli con la forma, qualche volta con l'intuito, con il senso di realtà, cioè guardando quello che succede in campionato, guardando se un giocatore ha segnato nella sua vita già al Bernabeu, per esempio, oppure se uno che se la fa in mano, quando, tanto per essere chiari, no? Quando invece bisogna essere saldi. Uh-huh. Insigne ha fatto con al Bernabeu, Insigne è vero che fa quel movimento, certo, ma anche Robben lo fa con l'altro piede, ma non per questo ad essere quieto. Però non per questo poi non giocava solo perché faceva solo quel movimento lì, avercene di mattonelle di quel tipo. E poi comunque non è solo Insigne, naturalmente. No, non possiamo chiaro. Ridurre solo a questo, perché anche posizioni di giocatori, Gabbiadini arriva adesso, Florenzi lì, no, appunto, nel mezzo, appunto, lì, parliamone, perché è arrivato anche Pardo che era andato al Ferramenta a comprare le brugole. No, io vi ascolto dalle 14.02, ho sentito tutto, eri a comprare le brugole, no? No, ho sentito tutto, ero qua, vi ascoltavo con grande entusiasmo. Quindi partecipa. No, sono d'accordo, penso che la formazione che sta insomma, che si sta per presentare ai nostri occhi stasera, siamo delle formazioni più improbabili, più clamorose. Me la spiegate, ragazzi, voi che siete bravi? No, io non te la so spiegare. No, provaci. Scusami, Pier. Allora, Giorginio, 0 minuti con Ventura. Ha giocato 2 amichevoli nell'era pre-Ventura con Conte nelle partite che hanno preceduto l'Europeo, poi è stato lasciato a casa. Ventura praticamente non l'ha mai convocato stasera nella gara della vita, parte titolare. Ma non solo non l'ha mai convocato, ha sempre detto e ha fatto capire che non era, diciamo, in linea con il modulo e con l'idea. Perfetto. Di quello che aveva detto questo. Giorginio va benissimo, ma può andare bene anche Gabbiadini, attenzione, nel senso che ma Gabbiadini può andare non... bene anche Crosetti, però, o Pardo, basta che buttino dentro la palla, questo è ovvio, però il senso di tutto questo a me sfugge, Pier. No, anche a me sfugge, infatti oggi, quella di oggi è un lungo quasi un silenzio preelettorale, non so come dirti, dovremmo veramente, lo so che invece giustamente dobbiamo parlarne, c'è voglia di parlarne, ma siamo di fronte a una cosa che non... Cioè, arriviamo nelle peggiori condizioni possibili a questa è quello, però magari, è quello, magari sarà successo proprio per questo, perché poi comunque esiste, secondo me, una nostra qualità che è superiore a quella della Svezia, esistono dei limiti della formazione svedese e quindi bisogna sperare in questo. Certo, dire che ci arriviamo bene una follia. Allora, dicevo prima, il discorso è questo, Maurizio. Cioè, non è il fatto che dobbiamo giocare lo spareggio contro la Svezia, che onestamente, al di là delle brugole, non è l'invincibile armada, no? Lo sappiamo. Però è il fatto, è di come arriviamo a questo risultato, che era in qualche modo scontato e previsto. Nel girone con la Spagna, poi ci inchiniamo davanti alla Spagna prima ancora di giocare, perché ci sentiamo inferiori da tutti i punti di vista, probabilmente lo siamo anche, però questa è anche pure un'altra storia. Il fatto è che arriviamo a questa gara e arriviamo a questo spareggio in condizioni che peggiori di così è impossibile. No, è che siamo nel panico dal Bernabeu. Cioè, tu pigli delle sberle, anche un po' per colpa tua, in Spagna, e siamo i primi di settembre. Cioè, tra un po' è Natale. A Torino hanno già messo le luci d'artista, che sarebbero quelle belle luminarie. Sì, sì. Tra un po' è Pasqua e io sto già pensando alle ferie. Ebbene, in tutto questo frattempo, quelle estive ovviamente, in tutto questo frattempo... Dove andiamo a fare vacanze estive? Io tornerei a Glasgow, siamo stati talmente bene. Ah, vero, sì, anch'io, no, ma tanto abbiamo tempo, Maurizio, abbiamo tempo. Ma dobbiamo andare a Kiev questa volta, visto che la finale di Champions sarà a Kiev. Dobbiamo fare un bel giro dell'Ucraina, comunque, vabbè. Tu dici, a parte il fatto che noi siamo andati a Cardiff e mica a Glasgow, non so, sono un po' geloso, non so con chi sei andato a Glasgow, ma comunque... No, io sono rimasto a Cardiff, anch'io sono rimasto negli spogliatoi, mentre tu andavi a Glasgow io rimanevo negli spogliatoi a Cardiff, vabbè. No, comunque davvero, non ci siamo ancora svegliati da quelle sberle del Bernabeu. Ma com'è possibile? Non ho capito, questi sono giocatori, alcuni almeno, che ne hanno già viste, insomma, nella qualcuna, loro vita di partite. Cardiff no, compresa, insomma, sì. Compresa, certo. E Macedonia, paralisi dei centri nervosi. Albania, panico totale. Svezia, rimbambimento. C'eravamo rimbambiti, anche se poi quelle 2 o 3 volte in cui abbiamo spinto, soprattutto sulle corsie laterali, la Svezia si apriva. Cioè, avevi la sensazione, ma ragazzi, ma spingiamo un po', mettiamone ancora di palla in quel modo e poi si fa gol. Nei primi 3 minuti è quasi riuscita la cosa e poi basta. E adesso c'è un pokerista che alla seconda mano cambia tutte le carte. No, perché è la mossa disperata. Il giocatore diceva, senti, le cambio tutte sperando che ti entrino 3 assi, non lo so io, 4 jack, ma... Non lo so, io ne ho viste tante, ahimè, se ne avessi viste meno sarei più giovane, ma io non mi ricordo un avvicinamento del genere. Poi, come dice Pier, anche nella natura, direi quasi storica, del nostro calcio, più sei sotto e più alla fine ti ribelli. Sì, ma in però questo un minimo caso... di qualità ci deve essere. Cioè, non è l'Italia del 2006 che era dentro Calciopoli e si è ribellata. Sì, si è ribellata. Però con un... mi è caduto Maurizio Crosetti, ma tra poco andiamo avanti. Si è ribellata, ma con un po' di qualità, Pardo. Quella di questa sera è una finale al contrario. È una finale per restare vivi, non per vincere qualcosa. Sì, sì, quella di stasera è una partita al contrario, sicuramente. Io sono d'accordo sull'idea che si deve combattere la paura. si deve provare a fare la partita, anche se chiaramente il risultato è un risultato che impone una partita di giustezza, no? Cioè di grande attenzione, perché se subisci un gol poi diventano veramente dolori e devi fare tre. Però secondo me noi oggi dobbiamo andare in campo con la voglia di sbranarli, con la voglia di togliere qualsiasi forma di entusiasmo fin dai primi minuti, di provare la giocata, perché ce l'abbiamo le giocate. Perché ce l'abbiamo le giocate, se giochiamo con la paura che è stata la nostra compagna di viaggio dal Bernabeu in poi, facciamo solo disastri. Quindi in questo momento bisogna che i giocatori di maggiore esperienza trascinino gli altri a fare una partita di grande voglia e di grande pericolosità. Poi sì, come in Svezia non è stato. Sì, qualcosa, okay. qualcosa concederemo e ci deve dire bene, perché non è facile fargli tre gol se ne fanno uno. Però dobbiamo fare questo tipo di approccio alla gara, non c'è molto altro da fare. No, chiaro, ci fermiamo per il traffico. Intanto recuperiamo Maurizio Crosetti, anche perché io ho ancora una domanda a cui un sondaggione a cui voglio che partecipi Crosetti, voglio che partecipino anche i nostri ascoltatori. Raffaele da Bari già in linea, 800 24 00 24, e la domanda è questa: ma se dovessimo riuscire ad andare ai mondiali, ci andiamo con Ventura o senza? Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Beh, andiamo subito con questo domandone, anche perché ho ascoltatore in linea, poi ci colleghiamo con Alessandro Lanciato per capire qual è la situazione a poche ore dalla partita. Allora, la domanda, ripeto, Maurizio Crosetti l'abbiamo ripreso, per Luigi Pardo è con noi, la domanda è: mettiamo, ammesso e non concesso, che stasera si riesca a montare il mobile mondiale, come piace dire a Crosetti con tutte le brugole del caso, ci si va con Mastro Ventura oppure no? Cross. Beh, se si va con Ventura, un po' per consuetudine, un po' perché comunque chi raggiunge l'obiettivo da sempre è giusto che se lo giochi, quindi su questo non c'è dubbio. Ci sono molti dubbi sul resto, secondo me. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere sul da fare, l'abbiamo detto, ha ragione Pierluigi, tutte le cose che abbiamo detto bisognerà provare a farle, ma c'è anche un da non fare, secondo me, che è tenere i gomiti giù. Cioè, non dobbiamo pensare di giocare al wrestling dimostrando che siamo tosti quanto loro, perché là loro ci hanno menato e allora qui dobbiamo restituire, perché in un contesto del genere, sono sincero, i gomiti di Bonucci e di Chiellini mi spaventano molto, e se noi rimaniamo in 10 non ci andiamo né con Ventura né senza Ventura in mondiale. No, io dico, si va con Ventura o no, io non sono così convinto che per consuetudine o per così quieto vivere eccetera si debba andare con un commissario tecnico in questo momento. È onestamente esautorato dalla situazione, ragazzi. La persona a cui parlare è al chat, non so se è già in collegamento, nel senso che la mia idea è, io sono d'accordo con Crosetti, cioè secondo me esiste, se vuoi, anche un garbo e una è un rispetto delle regole. No, vabbè, esiste. Il famoso Pierluigi Garbo. Esatto, no, ma o Gabriel Garbo, o Daniele Garbo, che salutiamo. Lo salutiamo, magari ci sta ascoltando. No, secondo me il punto è un altro, ed è: se l'Italia arriva seconda nel girone, cioè se l'Italia vince stasera, insomma, è passata la seconda del girone, che è il risultato che onestamente era più facilmente pronosticabile alla vigilia. Quindi la partita di oggi è talmente grande, è talmente importante, che qualsiasi discorso facciamo adesso rischia di non avere significato, perché se l'Italia fa la partita che deve fare, noi domani siamo qua con le trombette e a sottolineare i problemi che ci sono stati, ma siamo con le trombette, perché se stasera battiamo la Svezia è un'impresa, per le condizioni nelle quali si arriva a questa partita, e cambia tutto, che non vuol dire che diventiamo la migliore nazionale al mondo e Ventura diventa Arrigo Sacchi, un incrocio del meglio di Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti, ma significa che andiamo al mondiale e ci andiamo tutto sommato nella maniera che era più facilmente pronosticabile. Quindi la partita di stasera non è un dettaglio, la partita di stasera è una partita che cambia il destino in positivo o in negativo. Se l'Italia stasera vince con la Svezia e vince bene, bisognerà anche giustamente dare i meriti a Ventura. Non è che se vince stasera quindi questo discorso lo facciamo domani. Ripeto, secondo me Ancelotti, e per questo sarà interessante sentire Alciato che lo conosce molto bene, è la classica opportunità alla Conte, alla Conte di due anni fa, no? Conte che viene liberato improvvisamente sul mercato. Bene, è lì. Ma anche per due mesi, anche per allora, non vogliamo legarlo per la vita. Ho capito che la nazionale non viene ad allenarla per due anni, ma in una situazione in cui è senza lavoro potrebbe esserci una convergenza di interessi fra la federazione e lui. Certo, sarebbe comunque poco carino nei confronti di Ventura, questo è sicuro. Sì, però onestamente bisogna anche ragionare in chiave, se ci fosse questa ipotesi, in chiave cinica e contemporanea, Cross, sì o no? Però non so se c'è, non lo so nemmeno io. Sì o no? Maurizio, poi ti saluto. Secondo me no. No. Ok. No, chiaro. Va benissimo. Temo di no, è un timore, è un pronostico anche un po', come dire, scaramantico. Però per la logica no. E siccome il calcio non è logico, forse sì. Ecco, sì. Mi sono salvato in corner. Guarda, in un modo veramente. Senti il rumore di unghie sui vetri. L'ho sentito, infatti ho una pelle d'oca alta così. Ciao Mauro, ci sentiamo presto. Ciao Maurizio. Ciao. Senti, Raffaele Davari, un secondo di pazienza, perché l'avvocato Alciato è con noi, Alessandro Alciato è con noi, e chiediamo qualcosa che interessa a chiunque, anche a Raffaele Lorenzo, che sono in ascolto. Ciao Ale. Ciao, buon pomeriggio. Ripeti Pier, per favore. Ho detto che per me vale il principio che diceva Crosetti, cioè che la partita di stasera è talmente importante, se stasera c'è una grande partita e l'Italia dovesse andare al mondiale, a quel punto ci sarebbe andata della maniera che si pronosticava la partenza, e quindi diciamo ci darebbe un garbo e un rispetto delle norme che porterebbe a Ventura a mantenere il posto di Ventura. L'unica eccezione io potrei pensare di farla per il signor Ancelotti, che è uno che comunque sia la nazionale mi pare non venga ad allenarla perché ha altri budget e altre situazioni, ma che in questo momento si trova, proprio come era successo a Conte due anni fa, improvvisamente potrebbe avere un interesse, però non lo so, perché già ieri mi pare che sia stato abbastanza smentito. Quindi la domanda è: secondo te, se la federazione va, ammesso che stasera ci qualifichiamo, da Ancelotti a dirgli prenderesti questo incarico di quattro mesi per giocarti il mondiale? D'altra parte, di governi di solidarietà, di governi tecnici, ne abbiamo visto qualcuno dalle nostre parti. Ale, guarda, no, mi stupirei ma tantissimo dovessi vedere Ancelotti a breve sulla panchina della nazionale, ma non. Con questo non voglio dire che magari la federazione non lo chiamerà, perché la cosa vera è che in realtà uno dei pensieri dei vertici federali, un pensiero nascosto, un pensiero non pubblico, un pensiero che probabilmente verrà smentito, proprio riguarda proprio il da farsi anche in caso di passaggio al mondiale, perché è qualcosa che l'avventura si è rotto, ripeto, si è rotto con un ambiente esterno, tante critiche da tutti. Per quanto riguarda Ventura, e allora Alessandro, Ale, ti sento male, dato che il discorso è importante ti richiamiamo subito. Intanto Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ciao a tutti e grazie per la convocazione. Io mi auguro che domani tutti gli italiani siano con le trombette, come dice Pardo. Ho paura perché vedo il CT confuso e i giocatori impauriti, però la mia domanda è un'altra. Ho sentito parlare questi giorni che la mancanza di gioco della nazionale o la mancanza di coesione deriva dal fatto che non abbiamo più blocchi in nazionale. Mi chiedo, ma da dove li prendiamo questi blocchi se le nostre squadre sono tutte fatte di stranieri? Sì. Detto questo, un'eventuale eliminazione, che non auguro perché l'Italia deve andare al mondiale, potrebbe servire per fare una vera rivoluzione a livello federale ed imporre magari delle piccole regole che servono a salvaguardare il calcio italiano, soprattutto i giovani, perché nazionali. Guardi Raffaele, questo no, ma lo so, ma lo so, lei ha ragione, è un discorso molto lungo, molto profondo e anche abbastanza vecchio questo, insomma, abbastanza datato questo che si fa sull'impiego dei giovani, settore giovanile, italiani, stranieri, eccetera, eccetera. Detto questo, non che al Bayern Monaco giochino 11 tedeschi, no, non esatto, è che esatto. Al Barcellona giochino 11 spagnoli, al Real Madrid 11 spagnoli pure, eccetera. Possiamo andare avanti. È tornato Alessandro Alciato, con cui volevo chiudere il discorso. Ale. Ecco, no, non so fino a che punto siete arrivati, faccio un riassunto molto rapido. Non escludo che la federazione una telefonata ad Ancelotti possa farla, mi sembrerebbe molto difficile che in quel caso però arrivasse un sì da parte di Ancelotti, soprattutto per una situazione del genere di emergenza. La cosa però certa è che stanno pensando in federazione al piano A, al piano B, al piano C, e fra questi tre piani c'è anche la possibilità di risolvere il contratto. Ma secondo te, scusami Alessandro, di qualificazione, sì. Non sto dicendo che succederà, ma stanno prendendo in considerazione questo tipo di ipotesi, sì, in caso di uscita dal mondiale, vabbè, in quel caso Ventura non sarebbe più il CT perché lo prevede il suo contratto appena rinnovato. Beh, questo fino mi al 2020, ma anche in caso l'Italia. Cioè, ma secondo te, conoscendolo bene, l'ultima cosa, Ancelotti. No, certo, però conoscendolo bene, Ancelotti direbbe di no anche per un incarico a tempo determinato per un mondiale, che è una soluzione bizzarra, finché vuoi, lo so. È una soluzione da decretazione d'urgenza, però direbbe di no anche in quel caso. Silenzio ha senso, mi abbiamo fatto, ma tanto sono argomenti di discussione, ci ritorneremo. Non diamo estensive che offensive. Sentiamo Lorenzo da Salerno, poi chiudiamo questa prima faticosa mezz'ora di attesa. Ok, Lorenzo, buongiorno, dica. Sì, salve, buongiorno, grazie della convocazione. Allora, rispongo prima alla domanda, noi in Russia e Ventura a casa. Poi, il modo, perché come da lui dichiarato, che tutti sapevamo che saremmo arrivati secondi e saremmo arrivati al comune, ma il modo in cui ci si arriva, senza idee, senza gioco, con ripescare Gabbiadini, riserva nel Napoli e qualche gol in... Nel Napoli sì, adesso gioca nel Southampton, gioca in Inghilterra, però... qualche gol nel Southampton e poi tutta la stampa quando si doveva mettere Jorginho, adesso lo si mette adesso con zero minuti con la sua gestione, è il modo, quindi non ha idee, è stato sfiduciato quando è stato messo da porta dai senatori, ormai Ventura non è più il nostro commissario tecnico. Quindi noi, tutta l'Italia calcistica, vogliamo andare ai mondiali, ma Ventura per cortesia deve tornare a casa. Sì, con grazie. Tutto il rispetto del caso per l'allenatore e per l'uomo, che sono eccellenti tutti e due, la persona e l'uomo, io la penso in maniera non differente da Lorenzo che ci ha dato giù con l'accetta. Pier, poi ci fermiamo per la borsa. Pier? Sì, sono qui. Ma sì, insomma, dai ragazzi, è chiaro che il sentiment in questo momento nei confronti del commissario tecnico è ai minimi termini. In parte per colpe sue, in parte anche perché poi siamo anche molto, molto rapidi nei giudizi. Sicuramente, insomma, questo era un girone difficile, lo sapevamo dall'inizio. È stato un girone che per un anno e mezzo la nazionale ha affrontato in maniera più che dignitosa. Pareggio con la Spagna, una serie di buoni risultati, insomma, eravamo lì. Poi ci serviva l'impresa al Bernabeu, gli ultimi tre mesi abbiamo rovinato tutto, come nella natura del calcio. Lo so, però vuol dire che moltissimo non hai costruito, Pierluigi, che se basta una partita sbagliata, affrontata nel modo sbagliato, per scassare non c'è dubbio, il lavoro che fatto prima era sull'argilla, no? In questo momento è tutto nero, vediamo domani, questa è una partita, ripeto, anch'io non la vedo bene, anch'io ho delle paure, anch'io... Non penso minimamente che ce la portiamo da casa, cioè penso che sia in questo momento 55 Svezia, 45 noi, sì. Però dico anche che se facciamo una partita di un certo tipo cambiano tutti gli scenari, ma sicuramente cambiano tutti gli scenari, perché come il calcio è liquido e negativo, lo è anche in positivo, eh? Assolutamente, ma oggi ci troviamo a fare discorsi di questo tipo, esatto. E stasera alle 22:40 più minuto meno lo scopriremo anche insieme su Radio 24, perché è previsto uno speciale in effetto notte con il sottoscritto, Roberta Giordano, Dario Riccio, il nostro inviato a San Siro, spero anche per Luigi Pardo, però magari ha da fare, sicuramente Giovanni Capuano, insomma, borsa, poi vi spiego tutto. Mancherebbero due minuti, però mi hanno dato tre minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Testimonianza del fatto che c'è questo grande calore e attaccamento verso la nostra nazionale. Viallo, di Agostini, ancora verso Vialli, nella posizione di alla sinistra, entra in area di rigore Vialli, il suo tiro, gol, grande gol di Gianluca Vialli, splendido. Ecco la palla in area di rigore, Vialli, e ancora Vialli, straordinario, mette il gol, grande Vialli, secondo successo personale. Allora, sia di buon auspicio, era il 14 di novembre, oggi è il 13, 14 novembre 1987, luogo Napoli, Italia batte Svezia 2-1 sulla via della qualificazione agli europei dell'88. Guarda caso, all'andata in Svezia, era nel girone questa, all'andata in Svezia si era perso 1-0, doppietta di Vialli con un gol di Larsson in mezzo, e l'Italia che andò a quegli europei poi non fortunatissimi, ma da lì nacque l'Italia delle notti magiche, quella del 90. Piaciuta questa, Pardo? Sì, tra l'altro mi sono posizionato così, proprio tanto per rispondere alla scaramanzia, nella stessa stanza, perché qui sono a casa dei miei genitori, quindi casa dove praticamente sono nato, nella stessa stanza dove avevo visto quella partita. Adesso sto guardando, sto fissando una parete, come sì, si compie, la sto fissando una parete dove c'era il televisore, una scena surreale. Tra l'altro la casa ha avuto anche dei lavori, quindi è un po' diversa da tutto, ma sono sulla stessa parete. Adesso se mi consenti smetto di fissare la parete. No, continua a fissare la parete. Continua a fissare la parete. Sì, continua, tu stai lì, sì. Fissa la parete. Patrizio da Bergamo, buonasera. Buonasera a voi. Come guarderà la partita questa sera, fissando la parete dove ha visto il Mondiale del 90 o quella partita dell'87? No, me la guarderò tranquillamente, seduto sul divano, con in parte mia moglie, senza problemi, anche perché mi ha lasciato perplesso un po' i commenti che sono stati fatti. Noi abbiamo una squadra che dovrebbe andare in campo e sapere quello che deve fare indipendentemente da Ventura. Secondo, quando sento parlare di gente che va in campo che è impaurita, veramente mi si rizzano i capelli. Ecco, non riesco a capire questo timore di non passare. Dovrebbero andare in campo e arare il campo finché non è finita la partita. Sì, Patrizio, invece... ma parole tutto corretto, tutto condivisibile. Vorremmo andare in campo tutti noi, 56 milioni, così a mangiarci l'erba. Poi nei fatti è un po' diverso il calcio ed è un po' diverso lo sport. Sentiamo anche Carlo dalla provincia di Lodi, poi rispondiamo, poi lasciamo Pierluigi che fissa la parete. Dica, Carlo, dica. Buongiorno gente, complimenti. Buongiorno, per grazie. La trasmissione. Senta, io volevo fare una considerazione. Bisogna dividere in due argomenti la nazionale: uno è l'allenatore e uno è il materiale umano. Nel senso che l'allenatore, per carità, può essere anche discusso, ma io penso che più di tanto non si potesse fare. Però dico, mettiamoci pure Ancelotti, mettiamoci pure Conte, ma se il materiale umano è quello che è, la vedo difficile poter migliorare di tanto la situazione. Cosa ne pensate? Perché probabilmente più che l'allenatore comunque bisognerebbe cambiare qualcosa che permettesse ai giocatori italiani di migliorare la qualità. Io chiedo l'ausilio del mio fratello di microfono Pierluigi Pardo. Materiale umano, alla vigilia degli europei di 2 anni fa, non di un secolo fa, il materiale umano non era molto diverso. Sì, però lì c'erano stati 20 giorni di lavoro con Conte, fatti bene, insomma. No, l'allenatore conta, ragazzi. L'allenatore conta, però sì, non vuol conta. Dire, cioè, adesso... non vuol dire che è tutto, però conta. No, ma non vuol dire che Ventura sia un cattivo allenatore, perché io sento delle esagerazioni in questi giorni. Che sono, ma certo, ma è chiaro. Ma non discutiamo il valore assoluto, Pier. Non discutiamo il valore assoluto dell'allenatore. È evidente che nelle ultime uscite si sta prendendo una bruttissima china. Ed è una china dove è l'allenatore che deve uscirne fuori, non c'è dubbio. Quindi. Ripeto, qualsiasi valutazione fatta oggi rischia di essere stonata in un senso o nell'altro domani. Speriamo che siano stonati i pessimisti oggi. In Svezia abbiamo giocato una partita non all'altezza, sicuramente, una partita che oggettivamente poteva concludersi con un risultato diverso. Questo credo sia oggettivo. Poi alcune cose non si capiscono, quell'insigne lì nel finale al centro non l'ho capito, i due attaccanti di area di rigore non li ho capiti, cioè ci sono delle cose che non abbiamo capito tutti quanti, che sono inquietanti, certo. Però Però ripeto, oggi è talmente grande, è talmente importante che i giudizi vanno rimandati a domani, o a stasera, durante la partita. Giudicheremo, la valuteremo. La formazione che circola in effetti è surreale. Appunto, appunto. Però non penso che veramente, come dice Gianni Gnocchi, Ventura voglia andare, abbia prenotato una vacanza l'anno prossimo. No, ma bene, aspettiamo, giudizio sospeso correttamente, poi avremo moltissimo tempo, moltissimo spazio di cui discutere. Pier, ciao, ci vediamo stasera se puoi. Sì, ciao. A che ora? Dalle 22 alle 23 effetto notte. Vabbè, chiamate, seguiremo la partita. Cioè, sì, chiamate, certo, sarò lì un po' di gente. Cioè, con un po' di gente, fantastico. Sì, facciamo facciamo un rave. Ciao Pierino, a dopo. Allora, adesso io cambierei discorso giusto per prendere un po' di fiato, un po' di ossigeno, perché questa tensione prepartita ci sta intossicando. Torniamo a ieri, dove le cose sono andate bene ma non benissimo. Addirittura non ci credo, è caduto e si è ripreso. Che fenomeno! Lorenzo in terra! È caduto. Chi è come vizioso anche! È Dovi! Vabbè, finito. Vabbè, andate. In due giri è successo tutto. Marc Márquez, campione del mondo. 6 un fenomeno Márquez. 4 mondiali vinti nella top class. Fantastico Márquez, anche Dovizioso. Caro Dovi, bravo che sei stato. Márquez ha vinto il titolo mondiale, ma siamo felici di aver trovato anche te così. Sì, è stata una gara molto lunga per me. Voleva che anche Dovi finisse la gara, perché è stato un rivale molto... Ho imparato tante cose da lui, soprattutto mentalmente. Dovi ha fatto un gran lavoro. Così questo, quando in un campionato sono piloti tanto veloci come loro, lo fa più interessante. Bene, ma non benissimo, era già tutto previsto, avrebbe detto il poeta, ma questa è una citazione che abbiamo già fatto. Dovizioso dunque, che non riesce a strappare il mondiale dalle unghie di Márquez. Ferrari che vince a San Paolo con Hamilton, però già campione del mondo. Hamilton, Márquez, due fenomeni, titolo mondiale meritato. Ma torniamo sulle moto, tra poco ne parliamo con Roberto Ungaro, con un grande ospite. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Hai cambiato idea, la notte ha portato consiglio? No, rimango della mia per quanto riguarda Lorenzo e per tutto il resto. Abbiamo visto quello che è stato un riassunto della stagione alla fine. Bravissimo Dovi, però Márquez è il numero uno, non si può dire niente. No, rimane il rimpianto, però hai ragione tu, no? Poi possiamo discutere di Lorenzo, l'abbiamo fatto ieri, lo faremo, eccetera. Non però niente. La verità è che, come tu hai detto ieri, il Dovi ieri non ne aveva, non è riuscito nemmeno a mettere Lorenzo nelle condizioni di obbedire agli ordini di scuderia. Ieri Dovizioso non aveva la possibilità di insidiare Marc Márquez. Ne parliamo tra un attimo, traffico, torniamo subito. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. Sono troppo contento di quest'anno. Voglio ringraziare il team, la Ducati e tutti gli sponsor, perché quest'anno mi ha fatto un campionato esagerato e grande soddisfazione, è stato un gran bell'anno. Questo era il Dovi, ovviamente condividiamo, grande stagione, grande anno, grandi emozioni che non potremo dimenticare, ci resta una medaglia d'argento che è importantissima, un casco d'argento come si diceva una volta, però ragazzi alla fine che conta è il casco d'oro, cioè il sesto che si è messo sulla capoccia Marc Márquez. Roberto Ungaro, abbiamo un grande ospite come Carlo Fiorani che ha festeggiato tutta notte il mondiale da Racing Communication Manager di Honda e quindi del team campione del mondo. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, grazie. Ciao Carlo. Ciao. Roby, comincia tu. Comincio io, Carlo. Uh-huh. Guardo già il futuro, guardo domani, perché domani si parlerà già 2018 e a fine 2018 scadrà il contratto di Márquez come di tanti altri. Come farete a tenervelo stretto questo pilota che fa la differenza con, io oso Carlo, una KTM, una Red Bull, che è uno sponsor molto importante e sul piatto è pesante quando fa le offerte, come farà Honda a tenerselo, Carlo? Ma allora, innanzitutto se lo, io immagino che la, il modo principale per tenerlo sia proprio quello del, dei buoni rapporti e dell'ottimo rapporto che lui ha in questo momento sia col team che con tutti i manager di Honda HRC. Infatti, come Marco ha sottolineato più volte durante ieri durante le sue conferenze stampa, ha detto il team e l'azienda mi ha aiutato tantissimo, perché nella prima fase ero un po' in crisi e poi mi hanno motivato, mi hanno dato quella spinta in più che mi serviva per cui dice in realtà veramente questa volta con tutto il cuore dedico al team e all'azienda una parte di questo, per cui è chiaro che per tenersi un pilota ci sono, diciamo, le cose più importanti sono la motocicletta, il mezzo meccanico e i buoni rapporti. In questo momento, insomma, noi possiamo offrire entrambi, chiaramente abbiamo, e come dicevi te, siamo nel futuro, noi oggi siamo qui già di nuovo in circuito dopo tutta la notte passata a festeggiare. Ma posso immaginare, non ti chiedo come, perché insomma siamo in fascia protetta, però no, ecco, è stato divertente. E sono arrivate già le moto del 2018, per cui domani siamo in, certo, oggi è giorno mentre di io già immagino Ungaro con gli occhi che scintillano all'idea di chiederti qualcosa sulle moto del 2018, cosa che farà tra un attimo. Io torno al 2017, a questo titolo mondiale. Mi permetti di dire che forse quest'anno Honda non era la moto migliore, o quantomeno non era così nettamente superiore rispetto alle altre? Ma guarda, alla fine io da appassionato non lo condivido questo, perché in realtà se tu vedi i dati, noi abbiamo vinto il titolo costruttori, per cui questo ti dà comunque il senso che sono tutte le moto, tutti quanti sono andati bene. Dani, in realtà abbiamo fatto ieri sera i conti, è stato dopo Mark il pilota che ha fatto più podi, per cui seguito da Dovi, per cui la moto, diciamo che nella prima fase sono d'accordo con te, nella prima fase del campionato, poi a un certo punto abbiamo cominciato a capirla meglio, abbiamo messo a punto una strategia di elettronica migliore e da quel momento in poi la moto ha cominciato ad andare bene, infatti è andato, e soprattutto era molto, molto stabile nelle prestazioni, cioè non abbiamo avuto come gli altri, come altri casi, altri team, up and down. Un up and down, abbiamo avuto, ecco, l'unica variabile per noi è stata quella dei pneumatici, perché Dani, quando soprattutto sul bagnato con temperature basse, non riusciva, a causa del suo peso molto leggero, a mandare in temperatura i pneumatici, per cui anche usando la soft non riusciva a entrare in temperatura, per cui lui lì era fuori dai giochi, però era non una questione legata alla moto, ma più una questione legata proprio al tipo di, proprio di materiale, chiarissimo. Allora, quindi, Carlo, Roberto, abbiamo tre minuti totali, hai un'ultima domanda per Carlo Fiorani. Quello quindi, che vuoi. Carlo, confermi che le 27 cadute, quel modo, quell'approccio così aggressivo che ha Mark ad affrontare la gara, non dipende dalla moto, non è lui che cerca di mettere qualcosa di suo, ma è proprio il suo stile, e così rimarrà sempre, anche se la moto 2018 dovesse essere molto più bilanciata. E le 20, io dico sono le 20, le cadute sono 28, perché in realtà è mezza ieri e mezza in Malesia. Ieri è un miracolo, è vero. Che di fatto ieri io tutti quanti lo davamo per caduto. Sì, comunque te lo confermo, lui ha una guida estremamente aggressiva, estremamente acrobatica, e lui guiderà sempre così, perché è il suo modo di guidare, cioè è maturato in questi anni, però il suo stile rimane quello, senz'altro. Cioè, è un pilota aggressivo, come avete visto anche ieri, cioè lui anche ieri poteva far tranquillamente mettersi fra quinta e sesta posizione, invece comunque ha immediatamente cercato di andare avanti, ha cercato, quando ha capito che Zarco a un certo punto era un pochino in difficoltà, ha cercato di superarlo, ha fatto un errore, a quel punto ha capito, si insegnava di maturità, però ecco, il suo stile è quello, cioè lo stile del suo mondo, ed è il suo bello, Carlo, perché è quello che ci fa divertire, no? Cioè, noi vogliamo un po' parlavo con Dovizioso Salone e mi diceva: guarda, l'unico modo in cui può sbagliare e cadere nell'errore è quando non accetta di trattenersi e gli si chiude la vena e vuole fare il risultato. Quello è l'unico frangente in cui mostra fianchi, mostra debolezza. Max, perché d'accordo? È un pilota, perché è un grande pilota. Lo sai meglio di me, caro mio, caro mio Roberto Ungaro. Però c'è chi si trattiene di più, come il Dovi, e invece chi si trattiene di meno. Io non posso dimenticare quella caduta di Rossi Alemán, perché è ancora un pilota. Certo. Poi è chiaro che probabilmente l'epoca è passata anche per Valentino. Ragazzi, vi ringrazio, grazie Roberto, ci sentiamo presto, grazie Carlo Fiorani. Grazie a tutti. Buon lavoro, Carlo, buona festa, non so come va avanti oggi, ma credo tutte e due le cose, insomma. No, Carlo. Come si dice, so ragazzi. So ragazzi. Capito tutto, Carletto, grazie. Grazie. Ciao. Allora, saluto tutti gli ascoltatori ricordando l'appuntamento di questa sera, Verità della Svezia, speciale di Effetto Notte con il sottoscritto Ai Voi, con Roberta Giordano, ben per voi. A seguire insieme il secondo tempo della partita e poi a parlarne insieme subito dopo la fine della gara. Quindi, beh, che dire, io vi aspetto. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, vi saluto. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!